è un'altra giornata che non è soltanto di avvicinamento a quella dell'Italia di domani, ma è un'altra giornata che rischia di pesare molto sul mondiale. Rischia di pesare tantissimo, Gigi, perché oggi la FIFA, e dico la FIFA, ma anche tutti noi potremmo perdere Germania e Inghilterra, una delle due, nessuna delle due o anche tutte e due. Ci potrebbe anche essere un ottavo di finale Germania e Inghilterra. Ci potrebbe essere anche la monetina, perché Stati Uniti e Inghilterra hanno gli stessi punti e la stessa differenza reti. Hanno però segnato un numero di gol diversi. Se finisse 0-0 la partita dell'Inghilterra, se finisse 0-0 la partita degli Stati Uniti e l'Inghilterra pareggiasse 2-2, andremo addirittura al sorteggio tra le due. Certo. Eventualità remote, ma non remotissime, così come quella dell'Italia di andare al sorteggio con la Nuova Zelanda. Però oggi ci sono 8 squadre in campo, tutte e 8 possono passare. La speranza dell'Australia è abbastanza teorica perché ha un punto solo, ma ha una differenza reti veramente pesante perché è -3. Però così come ieri, poi intendiamoci, non è un mondiale bello tecnicamente, però è un mondiale che i primi 4 gironi, cioè A, B, C e D, ha delle situazioni che sono apertissime alla terza partita. Questo E è già il vero. fatto che ieri Uruguay e Messico la partita l'abbiano giocata, secondo me depone a favore di un torneo che, ripeto, non ha ancora raggiunto vette importanti, ma io mi aspetto che possa crescere da questo punto di vista e per quanto riguarda l'equilibrio regala certamente tensione, perché comunque tutti e 2 i gironi di oggi sono apertissimi. Tutti lo speriamo, Fabio, che decolli qualitativamente in senso complessivo. Fermo restando che io ho visto edizioni di mondiali in cui dopo le prime 2 giornate non c'erano squadre che giocavano il calcio di Brasile e Argentina. Sì, vero, Ecco, vero, vero. la qualità di queste due fino adesso, in crescendo oltretutto, soprattutto per quello che riguarda il Brasile, no, non è da mondiale tecnicamente scarso. È No, scarso certo. se si scende sotto il livello di queste due, almeno a parer mio. Concordo pienamente, Gigi. Lo dico perché tante volte leggo, sento dire, ma insomma, mancano i grandi campioni, non si vedono le grandi giocate. Insomma, andate a rivedervi il gol di David Villa l'altra sera. Sì, Io credo che certo. quel gol lì Sì. sia un gol che vale la partita. Come Certo. stanno giocando la Spagna, che pure rischia, come sta giocando il Cile, cioè, non mi sembrano nazionali che non abbiano divertito, No, anche se no. poi la Spagna la prima partita l'ha persa. Se a questo ci aggiungiamo un equilibrio straordinario, beh, insomma, trovo che sia un mondiale accettabile.